dovete prendere l'inizio del nostro capitoletto. È il debutante de Felicitazione. 86? Allora, vi riassumo un po', come dire, dopo tutto il periodo della puntata precedente, vi ricorderete che il nostro eroe, come si suol dire, era rimasto a Parigi nella speranza di poter rimanere vicino alla Barbu, se non che appunto si trova poi ad affrontare questa esperienza misteriosa di Parigi d'estate dietro un fantasma d'amore, fantasma perché Madame Arnaud non c'è, è partita e come il marito era in forma è andato a trovare la madre che è malata. Ricordate sempre questa tecnica narrativa di Flaubert così particolare, quella di costruire i personaggi come l'ho detto varie volte, come se fossero personaggi della commedia dell'arte, cioè ognuna con le sue caratterizzazioni, per cui il lettore ha questa strana impressione che ogni volta che il personaggio appare in qualche modo già lo conosce, ha un senso di familiarità e anche di allegria. D'altra parte tutto questo è anche abbastanza verosimile perché nella vita comune che noi abbiamo una certa idea delle persone che ci circondano, che fanno parte del nostro entourage, cioè ci aspettiamo grosso modo che reagiscano sempre allo stesso modo, no? Siamo assai stupiti se per esempio improvvisamente noi conosciamo, voi conoscete perché siete, avete i genitori, insomma, conoscete vostra madre, sapete com'è il carattere di vostra madre, lei lo sa qual è il carattere di sua madre, per cui si aspetta che agisca in un certo modo. Se sua madre agisse in un modo assai diverso, ne sarebbe stupita, no? Ne sarebbe stupita. Questa è una sensazione, questa, faccio una parentesi, insomma, questa è una sensazione molto interessante su cui lavora Freud, è quella dell'Unheimlich, cioè del non, ve lo dico così per Inches, del non familiare, no? Quando noi abbiamo un rapporto con una persona, improvvisamente la persona mostra a noi di comportarsi in modo diverso da quello che conosciamo, e tutto questo, se la persona ci è nota, ci sgomenta. Uno si aspetta che la propria fidanzata, ovvero il proprio fidanzato, sia sempre lo stesso, e poi ogni tanto vede magari nei suoi occhi un barlume che gli fa capire che è strano. Una delle esperienze coniugali più singolari e anche abbastanza devastanti, e quando uno scopre nel coniuge che conosce, credeva di conoscere molto bene, qualcosa di strano. Ma venendo al lettore di Flaubert, invece il lettore di Flaubert ci offre un'esperienza di tutt'altro genere. Una bellissima esperienza. Quando appare Arnaud, noi sappiamo che Arnaud fa Arnaud. Ecco, è un po' quello che vi raccontavo del grande Roland Barthes, il quale parlava di faceva una distinzione tra i texte, vi ricordate, de plaisir e de jouissance. I texte de plaisir sono quelli che ti vengono incontro. Certamente l'educazione sentimentale da questo punto di vista è un texte de plaisir, perché quando noi vediamo Madame Arnoux, fa Madame Arnoux, non è che fa un'altra donna. Frédéric è Frédéric. Già, a proposito. Chi è Frédéric? Se dovessimo il protagonista definirlo, come lo definirei? Questo protagonista, evidentemente autobiografico, è uno dei personaggi più fascinosi e complessi della letteratura. Perché, pur essendo sempre Frédéric, quindi noi a un certo punto, sapendo con chi abbiamo a che fare, è molto sfumato, è un personaggio molle, irresoluto, generoso, melanconico, con un sostanziale rifiuto di te Questo è Frédéric. Questo è Frédéric. Di questi personaggi molli e irrisoluti abbiamo altri esempi nella letteratura moderna, voglio dirvi. E starei per dire, purtroppo il discorso, per quanto molto interessante, ci porterebbe molto lontano, che un epigono di tutt'altro levatura completamente, di Frédéric Moreau, è il protagonista dell'Uomo senza qualità di Musil, ecco, Ulrich. Un uomo che non, un dilettante permanente che non sa decidersi in modo molto elaborato, studiato e naturalmente e dal punto di vista romanzesco devo dire infinitamente meno felice di quanto sia invece il protagonista della passione sentimentale. È come se l'eroe moderno fosse un emblema di quello che il Papa detesta tanto, cioè il relativismo, no? Quando, voi sapete, ci sono continuamente, direi un giorno sì e l'altro pure, come diciamo a Roma, quando il Papa fa i suoi attacchi, e adesso insomma è diventata abbastanza interessante la battaglia tra il Papa e il resto del mondo, per così dire, l'obiettivo sostanziale che cos'è? È il relativismo, è il fatto ma tutto è sostanzialmente indifferente, ma non so decidermi. Questo è esattamente quello che la Chiesa Cattolica detesta. Percorso, perché effettivamente questo è un pericolo per qualunque luogo dogmatico, come è per appunto la Chiesa, come per appunto la Chiesa Cattolica. L'uomo moderno è un uomo senza qualità. L'uomo moderno è un uomo che è pieno di senso del relativo. Ripeto, il discorso mi affascina molto e spero che interessi anche voi, mi piacerebbe portarlo avanti, ma voglio dirvi soltanto una piccola cosa che mi sta venendo, mi sta attraversando in questo momento la mente, insomma, che l'emblema di questo modo senza qualità di intendere la vita, di questo modo relativo, di questo modo morbido, mi seguite bene? Ci siamo? Mi sta seguendo? L'emblema, sapete che cos'è? Vi piace la suspense? L'emblema è Facebook. Cioè non c'è nulla di più moderno di Facebook. Tanti amici, nessun amico, irrisoluzione, cazzeggio permanente, libertà, abbandono, confidenza, curiosità. Facebook è, come dire, l'essenza abbastanza tragica per altri aspetti, non possiamo soffermarci sull'argomento, l'essenza della modernità. Frédéric Moreau è un'essenza di modernità. Vedete come parlando di cose poi interessanti, uno è portato ad andare da un argomento all'altro, adesso noi torniamo implacabilmente al nostro, a, come dicono i francesi, non, a non mouton, torniamo ai nostri montoni, per parlarvi di questo brano, per parlarvi di questo molto brano, di questo bellissimo brano, in cui Frédéric chiede a Madame Moreau come sta sua madre, perché è stata madre, la madre per questo lei si è assentata a Parigi. E sentite come risponde Marie Moreau. Si chiama Marie, lo sapete, si chiama Marie. Dice, lui cominciò con delle congratulazioni a proposito della madre la cui malattia era stata così grave. Ma no, chi me l'ha detto? Ah, lui! Ah! Lei fece una leggera e poi aggiunse che aveva avuto da principio dei timori seri, che ora però erano scomparsi. E restava vicino al fuoco, al focolare, nella bergère di stoffa, la bergère. Sapete cosa sono le bergère? Vedete esattamente qual è la bergère? La bergère è una grossa poltrona con due cuscini, una a destra e una a sinistra per appoggiare le braccia, ecco, in cui in teoria due persone magre potrebbero starci, insomma, però è per una persona. persona, lei stava in una vergè. Allora, lei restava vicino al camino, una vergè, e lui era sul cavallo, e con il cappello sulle ginocchia. E il discorso che tenevo, lei abbandonava ogni minuto, e non trovava modo lui di unirsi per parlare dei suoi sentimenti. Ma siccome si lamentava di studiare legge, lei replicò: ah sì, capisco gli affari. Ha passato il volto assorta tutto un tratto nelle sue riflessioni. Egli aveva sete di conoscerla e anzi non pensava ad altra cosa. Il crepuscolo ammassava dell'ombra intorno a loro. Si alzò, avendo una commissione da fare, poi riapparve con un cappotto, con un mantello di velluto, un berretto di velluto e un mantello nero bordato di pellini grigi. E lui offrì di accompagnarla. Non ci si vedeva più, il tempo era freddo e una pesante nebbia cancellando la facciata delle case aveva un odore forte nell'aria. Frederic la annusava con delizia perché sentiva attraverso l'ovatta del vestito la forma del suo braccio e la sua mano chiusa in un guanto di camoscio a due bottoni, la sua manina che avrebbe voluto coprire di baci s'appoggiava sulla sua manica. A causa del selciato scivoloso ondeggiavano un po' e gli sembrava che fossero tutti e due come trasportacullati dal vento in mezzo alle nuvole. Lo sfogorio delle luci sul viale, sul boulevard, lo riportò alla realtà. L'occasione era buona e il tempo ormai stringeva, e si concesse fino alla rue de Richelieu per dichiararle il suo amore. Ma quasi subito, davanti a un negozio di porcellana, lei si fermò d'un tratto dicendo: siamo arrivati, vi ringrazio, a giovedì allora, come di solito. I pranzi ricominciarono, e più frequentava Madame Margon, più i suoi languori aumentavano. La contemplazione di quella donna lo snervava come l'uso di un profumo troppo forte. Questo profumo discendeva nelle profondità del suo temperamento, diventava quasi una maniera generale di sentire, un modo nuovo di esistere. Titoletto del capitolo, diamo sempre i titoletti se non sbaglio, no? A spasso con quella mano. Guardiamo allora, naturalmente Arnaud ha raccontato una bugia, comunque la cosa importante, diceva Arnaud, fa sempre Arnaud, ma Arnaud è un superficiale, se ne infischia naturalmente della moglie, se ne infischia del fatto che la moglie abbia la madre malata. Come vedrete, Madame Arnaud nella sua finezza può tanto più apparire, risaltare, quanto più il marito è rozzo. E d'altra parte, sapete, nei rapporti di coppia succede proprio che uno si definisce per contrasto attraverso l'altra persona. Sono sempre rimasto colpito dal fatto che in una coppia c'è una persona trainante, più importante, più intelligente. E allora quando si parla di quella coppia, Paolo e Maria, si fa riferimento a Paolo, ovvero a Maria. E Paolo e Maria si definiscono reciprocamente proprio nel loro contrasto. Paolo è fatto in un modo, Maria è fatto in un altro. Mi capitava in altri tempi felici della mia vita, in cui non so, si andava per esempio con mia moglie a cena, fuori, eccetera, magari mettiamoci fosse un Paolo e Maria, andiamo, si diceva, se Paolo era importante, andiamo dai Paoli, ecco, oppure dalle Marie. Perché in qualche modo c'era un coniuge che riusciva. riusciva a mangiare l'altro nella, nella coppia, no? Come era Argot? Se Argot è rozzo, volgare, Madame Argot. E qui è la grandezza, non è la Beatrice Dantesca, è una donna semplice, ma vogliamo dire la parola? Vogliamo dire la parola? È stupida. Semplice, stupida, fate voi. Ed è per questo, attenzione, che può essere con la D minuscola, che può essere Dio. Mi seguite bene? Dio, con la D minuscola naturalmente, è stupido. È per questo che può essere oggetto d'amore. Ma chi ama una donna super intelligente? Aggiungerò di più. Chi ama un uomo super intelligente? Si può amare Einstein? Leonardo da Vinci? Sì, ma non in quanto esclusivamente sia Einstein o Leonardo da Vinci, ma in quanto abbia dei risvolti di tenerezza, di umanità, di debolezza, per cui divenga attraente. Voglio dire, il Dio con la D minuscola, ma potremmo anche dire con la D maiuscola, il discorso sarebbe molto affascinante, il Dio con la D minuscola che uno riconosce nell'oggetto d'amore, non può essere una persona dotata di ogni qualità. Edgar Poe, che era un sommo scrittore, ma certamente non conosceva nulla di psicologia, insomma, immaginava che la donna d'amore fosse una donna che conosceva, dice, quasi tutte le lingue antiche, l'ho raccontato già se non sbaglio, e alcune delle moderne, che è una cosa pazzesca, perché se io incontrassi una donna che conosce quasi tutte le lingue antiche, parla in sanscrito, no, avrei un senso di rifiuto profondo, ma questo vale naturalmente dall'altra parte, anche nei confronti di un uomo, no? L'amore, se non c'è tenerezza, non vive. Questo è il punto. E come fai ad avere tenerezza per chi parla 10 lingue? No, è impossibile, assolutamente impossibile. Questa dolcemente stupida Marie Arnoux, come commenta il fatto che lui era preoccupato della salute della mamma? Cioè, lo sentite quanto è stupido questa interiezione? Non sa cosa dire. Dice, chi me l'ha detto che mia madre stava... E poi aggiunse che aveva avuto dei timori seri e poi erano scomparsi, e tutto bene. E adesso erano vicino al fuoco. Quando ci sono delle cose da noi, i luoghi hanno molto importanza, le cose concrete hanno molto importanza. Dove stai tu, dove sta lui? No, tutti abbiamo memoria nella nostra vita, siccome l'automobile occupa una parte consistente della nostra esistenza, perlomeno per gente che viene qui, che raccolto l'anulare, ha una sua consistenza, tutti sappiamo quanto, perlomeno, voi non so, forse avrete altre cose, insomma, tutti abbiamo fatto la nuova in macchina, tutti. Ai miei tempi lo si faceva in 500, era un grosso problema, 500 è piccola, stretta, bassa il sedile, ma per quanto sia diventava un problema notevole, e c'era il problema dell'appannare i vetri, eccetera, per cercare di proteggere la propria privacy, eccetera. I luoghi sono fondamentali, tutti abbiamo dei ricordi da nuovo legati alla leva del cambio, diciamo le cose. Questa è una frase che potete scrivere a capo del letto, sapete delle mie frasi. Tutti abbiamo dei colloqui amorosi legati inestricabilmente alla leva del cambio, che era lì a separare e al tempo stesso a continuare a manifestare come una sorta di fallicità simbolica questa leva che veniva su. Ecco. E allora, aspettate che ho perso il segno, ecco qui, e allora lì sono davanti l'uno all'altro. E lui dove hai? Al cappello fra le ginocchia. C'è una parola che noi romani usiamo, la parola imbranato. C'è qualcuno di voi che non sa cosa vuol dire imbranato? No. Ora, ci sono donne imbranate su questo, alcun dubbio, insomma. Ma diciamo così che a una certa età il maschio imbranato è una specie più diffusa, diciamo così. A parità di età il maschio imbranato, e cosa fa con il suo cappello il maschio imbranato? Lo tiene lì fra le ginocchia, perché è qualcosa a cui si aggrappa disperatamente per poter passare quel tempo, Però lei, e questo mi pare meraviglioso, della futilità mentale di lei si trova in una conversazione sentimentale, ma non è assolutamente attrezzata ad affrontarla, anzi, non sa che sta capitando. Come spesso persone ingenue sentimentalmente si trovano a vivere situazioni sentimentali, ma non sanno che le stanno vivendo. Quindi lei continuamente cambia discorso. E quindi lui, che vorrebbe poter farle la sua dichiarazione, no? Non riesce a farlo. E a un certo punto lui che cosa dice? Dice come un ragazzo della vostra età, dice: ah, io studio legge, ma mi rompo le palle sostanzialmente. Legge. Lei, che nulla capisce, nulla sa, e qui è meraviglioso il fatto, dice: ah, sì, legge, gli affari. Come gli affari? Studia legge. Cioè, non è un commerciante che sta facendo affari. Però per lei il mondo dei maschi adulti è tutto lo stesso. Legge, affari, no? Così. E a un certo momento, con assorta nelle sue riflessioni, qui è meraviglioso, dovete sentire il profumo, cioè sono persone, donne in particolare, ingenue, semplici, che a volte sembrano assorte nelle proprie riflessioni. A che pensano? All'immortalità dell'anima? No, a nulla. Il loro cervello è spento. Capite? La spina è staccata. Però naturalmente dall'altra parte, dalla parte di chi ascolta, si pensa che questa persona sia molto intelligente, stia pensando. Insomma, qui ci sono due persone di mediocre intelligenza che si amano. Uno mediocre, certamente Fredrick non ha una grande intelligenza, quindi è una grandezza, non è un genio, ma lei è stupida. E la cosa bella è l'amore di due quasi stupidi, perché è più genuino, no? Immaginate Rita Levi Montalcini, che da giovane naturalmente amasse qualcuno, ma è terrificante semplicemente il pensiero, no? A questo punto lui vuole conoscere. Questo verbo conoscere è tutto nella sessualità. Sapete, lo sapete che nella Bibbia si parla di conoscere, per l'appunto, e conoscere in senso biblico si dice anche, cioè vuol dire entrare a contatto con la persona. Guardate questa notazione che fa subito dopo Flaubert quando dice che il crepuscolo si ammassava fra di loro. Attenzione, le notazioni temporali in Flaubert sono molto importanti, perché ci danno per l'appunto l'idea del trascorrere delle ore, degli anni. Quindi spessissimo lui ricorre alla notazione delle ore della giornata, ovvero dei mesi e delle stagioni, per dare l'idea dello stendersi del muoversi della vita. Perché la nostra vita, attenzione ragazzi, avviene nel tempo. Una cosa per cui avevo scritto tanti anni fa: ci si innamora di primavera o di autunno o di estate, no? Cioè non ci si innamora in modo generico. Noi sappiamo che stagione era quando ci è capitata quella certa cosa. Si muore o si nasce di primavera, d'autunno, d'estate, non è che possiamo nascere in qualunque momento dell'anno, Quindi qui la notazione sta a far vedere che sta passando il tempo, i due sono uno vicino all'altro, sta passando il tempo. Quando lei, col gesto femminile, un po' perché non sa che cosa fare, un po' perché questa conversazione non è preparata, lei non sa che lui sta per dichiararsi, lei non capisce, però è certamente imbarazzata, con mobilità squisitamente femminile, pensosamente femminile, si alza e dice che deve andare a fare delle commissioni. E quindi si fa accompagnare da lui. Ed escono fuori. Ed è inverno. Il tempo era freddo e una pesante nebbia puffava nell'aria, ma lui annusava questo, perché, capite, è un luogo comune, naturalmente, la puzza dia fastidio. Certo la puzza dà fastidio. La puzza di una scella in un autobus d'estate, l'avete presente? L'amprone di una scella con i peli. La frode di una scella abbandonata a se stessa in un autobus d'estate. Io ricordo una volta, ho fatto un esame a un ragazzo, era una cosa spaventevole. Con la mia seggiola all'indietro, andavo sempre più all'indietro, e questo sciagurato rimaneva lì, ma non era assolutamente possibile sottrarsi agli esplosi spaventosi. Allora a un certo punto ho interrotto durante gli esami e gli ho detto: senti, ma noi dovremmo fare un discorso su questo genere, sull'igiene personale, perché l'igiene personale rappresenta un modo per mostrare la propria civiltà e per non uccidere l'interlocutore. Non uccidere, lei mi sta uccidendo. Allora invece una scenata spaventosa, il ragazzo era intimidito da questa scenata e non mi ricordo bene come è finita la scena. Non mi ricordo bene, ma gli dissi una frase su cui io vorrei non vedere mai più. Ecco, e poi io aggiungo, non vorrei sentirla mai più, però l'odore, ricordate la canzone di Gianna Nannini, nessuno di voi conosce Gianna Nannini. Chi conosce Gianna Nannini? C'è qualcuno che la conosce? Tutti la conoscete tutti. C'era una canzone di Gianna Nannini molti anni fa che si chiamava Profumo. Voglio il tuo profumo. Dopo aver fatto la cosa, cioè il profumo del corpo, ci sono delle ragazze, per esempio, tutte valvoline, che non hanno ancora capito che il deodorante può uccidere qualsiasi desiderio, no? Sono le ragazze che sono. No, bisogna arrivare a un giusto melange. Questo si impara all'università. E quindi che cosa succede? Succede che lui, questa puzza della nebbia, è meravigliosa. Viva la nebbia con il suo, poi la nebbia non di campagna, qui siamo a una nebbia di città, ho dimenticato, vi ho sicuramente detto in altre occasioni, non dovete mai dimenticare che mentre Padango Galina è un romanzo di campagna di provincia, questo è un libro di città, in cui la città è sempre protagonista. E che cosa fa? Cammina, e quando un uomo e una donna camminano, lei femminilmente si appoggia a lui, e lui sente il suo braccio. Cos'è meglio? Un braccio nudo o un braccio vestito? È soltanto dei grandi che non va bene, possono dire che un braccio nudo è meglio. È sempre meglio il vestito, naturalmente. E lui tiene la mano sul vestito, sulla manica di lei, sulla manica di lei, e la sua mano si appoggia alla mano di lei, si appoggia sulla mano, va bene, è chiaro il punto. Com'è la mano? La mano è un punto fondamentale del corpo femminile, fondamentale. E direi che sostanzialmente siamo tutti d'accordo nel fatto che se una donna ha delle mani così, diventa abbastanza spiacevole. La sua mano viene dipinta come mano di se stessa, naturalmente gradevole perché è la mano di lei, ma subito dopo Flaubert dice la sua piccola mano. Come mai prima dice mano e poi dice piccola mano, manina? Perché sapete che l'autore non interviene. Quindi a dire piccola mano non è Flaubert, è Frédéric, è lui che ha realizzato che la sua manina è dolcemente piccola e quindi tanto più attraente. Gli sembra a lui, a Frédéric, di essere cullati dal vento. Cullato dal vento, dice, dal vento. Ma naturalmente il vento non c'è, c'è la nebbia. Quindi questa idea del cullati splendido, non l'avevo mai notato. Questa idea di essere cullati dal vento è una sua fantasia, perché siamo in una sera invece di nebbia, no? Non ho mai visto io personalmente il vento e la nebbia coesistere. Però dobbiamo capire allora a questo punto cosa vuol dire essere cullati dal vento. utile essere in una situazione che tutti abbiamo conosciuto, di leggerezza, di estrema soavità, di morbidezza, finché a un certo momento, d'un colpo, lei si ferma e dice: siamo arrivati. E dice: ci vediamo però giovedì prossimo, come dice così di fare, con d'abitudine, come di solito. Questa parola è molto interessante, abitudine, perché che cosa è un amore? Un amore è un insieme di abitudini. Questo vale infallibilmente per ognuno di noi. C'è una prima volta per tutto: il bar, il ristorante, la pizzeria, il cinema, il posto in cui ci si incontra, l'ora della telefonata. E poi arrivano queste frasi, esempio: ci sentiamo alle 10, come sempre. E in quel come sempre si raccoglie tutto il profondo piacere di avere una sistemazione della propria vita. No? Nel vivere una storia d'amore è come se noi costruissimo una casa e vogliamo arredarla secondo il nostro piacere. Quindi conosciamo gli amici, per esempio, di lei o di lui, e poi magari conosciamo degli amici di lei o di lui più che dei nostri, insomma. E questa concretezza di una storia d'amore è quello che la rende possibile nel tempo. Troppo per uno che la vive? Sì, troppo. Nel senso che quando uno si distacca poi, sia pure momentaneamente, dalla storia d'amore, si sente soffocare. È troppo, è un profumo troppo forte. La contemplazione di quella donna lo snervava come l'impiego di un profumo troppo forte. Avete presente un profumo troppo forte, che sensazione ti può dare? E questo era diventato, dice Flaubert, per lui un nuovo modo di esistere. Questo è un aspetto interessante che Flaubert mette in evidenza, cioè l'amore non è semplicemente un qualcosa che si aggiunge alla tua esistenza, è un qualcosa che trasfigura la tua esistenza. Cioè, tu puoi, per esempio, cominciare a giocare a tennis, no? A giocare a tennis sistematicamente. Quindi il tennis diventa una parte della tua esistenza. Ma non diventa la tua esistenza, non influenza la tua esistenza, se non nella misura in cui tu hai deciso di dedicarti alle tue partite, agli allenamenti, eccetera. Invece l'amore non è qualcosa che tu puoi mantenere costretto come in un angolo, in un cassetto, è chiaro, no? È qualcosa che dal cassetto in cui si trova poi dilaga nel resto. Andiamo al capitolo successivo, che è il capitolo 13, almeno vediamo all'inizio. Bisogna girare le pagine in questo modo che vi dico adesso, eh? Dunque, una, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dunque, è molto facile però trovarlo, perché dovete prendere il capitolo del libro numero 6, va bene? E poi andate alla pagina successiva e il comme la résolution excessive lui coûte peu. Allora vediamo quello che è capitato. A me gli occhi giovani, che cos'è l'università a questo punto per Frederick? È molto semplicemente l'occasione di rimanere a Parigi. Frederick non è Frederick, è un paese di Parigi. A studiare costa. A lui capita questa chance. Per cattivi investimenti Aggiungo una cosa molto importante, ricordatevi che l'opera di Flaubert è fondamentale il tema del danaro. Potete chiudere un po' quella porta perché dà un po' un senso, no, poco poco. Il titolo del capitoletto, guarda. Adesso lo dico, se chiudete la porta lo dico. Grazie, Serena. Dunque, il titolo del capitoletto, 13 naturalmente, così lo intitoliamo. Rimasto solo. Ma sì, cosa succede? Succede che se la madre è rovinata economicamente, la madre è l'unica che lo mantiene, lui non può più studiare. Quindi così avviene e lui non può più tornare a Parigi. Un fulmine a ciel sereno. Non potrà più, sapete quanto gli importa di studiare all'università, ma quello che gli importa è Madame Arnaud, non la potrà più vedere. E allora si sente schiacciato dalla disgrazia. Schiacciato dalla disgrazia perché pensa forse a questo punto non si ricorderà nemmeno di me. Ma cosa devo fare? Devo dare spiegazioni. Però, con quelle velocità irridenti che spesso la vita ha con noi nei nostri confronti, la situazione se renverse e lui ottiene quella famosa eredità, vi ricordate, per cui inizialmente la madre l'aveva mandato da un parente, da uno zio. Quindi, dal nulla in cui era capitato, può tornare alla situazione di prima, no, meglio di prima, perché ora è ricco. Ma prima di arrivare a questo, questo capitoletto che adesso consideriamo, cioè il capitoletto numero 13, che comincia appunto in quel modo, dice come lui viveva in questi tempi e dice così: siccome le risoluzioni eccessive gli costavano poco, si era giurato di non tornare mai a Parigi e nemmeno di informarsi di Madame Arnaud. Tuttavia rimpiangeva perfino l'odore del gas e il rumore degli omnibus. Sognava tutte le parole che ella gli aveva detto e il timbro della voce e la luce degli occhi e, considerandosi come un uomo morto, non faceva più niente. Assolutamente. Si alzava molto tardi al mattino, guardava dalla finestra i carri che passavano, i primi 6 mesi soprattutto furono abominevoli. E certi giorni tuttavia un'indignazione lo prendeva contro se stesso e allora usciva e se ne andava nelle praterie a metà coperte durante l'inverno dalle esondazioni della Senna. Delle file di pioppi le dividevano e qua e là c'era un piccolo ponte, vagabondava fino a sera, calpestando le foglie gialle sotto i passi, aspirando la nebbia, saltando i fossati, e man mano che le sue arterie battevano più forte dei desideri di azione furiosa lo trascinavano via, e voleva allora farsi trappista in America, servire un pascià in Oriente, imbarcarsi come marinaio, ed esalava la sua melanconia nelle lunghe lettere a Delorier. Dopo un amore, che si fa? Voi sapete che la Blois du Temps, l'impiego del tempo, quando abbiamo rotto una relazione amorosa, è una cosa spaventosa. Ci si sveglia al mattino, vi sarà capitato sicuramente un qualcosa del genere, e si pensa alla terribile giornata di Blois davanti. Quando si va a dormire la sera si vuole soltanto chiudersi nel cuscino per non pensarci più. Persone che ci invitano, ci inducono a uscire fuori di casa, ma noi non accettiamo e non accettiamo per noi. E lui dice subito, non la vedrò mai più. Perché dice questo? Perché le risoluzioni eccessive sembrano più facili a una persona addolorata. Non ti vedrò mai più. Cioè, anziché controllare, ti vedrò soltanto in un certo modo, no? Il dire decisamente non ti vedrò mai più nella sua terribilità ci sembra più accettabile. Più accettabile. E la nostalgia. Sapete cosa vuol dire nostalgia? Chi me lo sa dire? L'etimo della parola. Nostos algos. È il dolore del ritorno. Come? Ma del ritorno, sì, no. Esattamente, il dolore del ritorno. Cioè, è il dolore che noi proviamo pensando al ritorno che vorremmo fare e che non è possibile. Quando io ho nostalgia di qualcuno, lui ha nostalgia di che cosa? Prima gli piaceva la nebbia che tuzzava. E adesso la nostalgia delle luci di Parigi, del rumore degli omnibus, adesso lì in campagna, tranquillo, no? Ma sono quelle forme di vita che ama. E che cosa ricorda? Il timbro della voce. Voi non sapete quanto è importante per una persona il timbro della voce. Il timbro della voce diventa la ricchezza della persona, la luce degli occhi. La luce degli occhi, il timbro della voce. Pensa a queste cose. Guardate quella lineetta che c'è dopo, lo vedete quella lineetta prima della congiunzione? E, lo vedete? È per indicare una separazione tra quello che sta ricordando e quello che lui è. Da una parte ricorda il timbro della voce, la luce degli occhi, poi lineetta, e guarda se stesso. Che cosa è lui? Che cosa è diventato? È diventato un morto. Ma se è morto, non deve più fare niente. Allora la nostra reazione, quando abbiamo avuto una storia d'amore finita, è quella di non fare più assolutamente.